Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Effetto LIUC, impariamo anche quest'altro acronimo, perché da questo effetto dipenderebbe la sostenibilità di numerosi biocombustibili, come emerso da un recente studio condotto dal GRC, il Centro Comune di Ricerca Europea, da Robert Edwards, Luisa Marelli e Fabio Monforti. LIUC sta per Indirect Land Use Change, quindi cambiamento indiretto dell'uso del suolo, e nel bilancio di sostenibilità dei biocombustibili va aggiunto a tutte le altre voci che fanno lievitare le emissioni di CO2 connesse appunto alla produzione di questi combustibili, come per esempio il consumo di acqua, di fertilizzanti e di agrofarmaci, ma anche i combustibili per la lavorazione dei terreni, per la raccolta e la lavorazione delle coltivazioni. Insomma, tutti i piccoli contributi, piccoli e meno piccoli, che come abbiamo più volte sottolineato comportano sia consumo energetico che emissioni di CO2, e che possono ridurre, fino anche a vanificare in alcuni casi, proprio i benefici nell'utilizzo dei biocombustibili rispetto ai combustibili fossili. Ebbene, oltre a tutte queste variabili, quindi, bisogna tenere conto anche di questo ulteriore effetto, l'effetto LIUC. Ci facciamo spiegare tutto da Luisa Marelli, ricercatrice del GRC e coordinatrice dei programmi di ricerca sui biocombustibili. Buonasera Marelli. Buonasera a tutti. Allora Marelli, iniziamo a spiegare questo misterioso effetto LIUC. Che cos'è e come si produce, come si manifesta, con che modalità? Allora, questo Indirect Land Use Change è un effetto relativamente nuovo, diciamo, venuto alla luce negli ultimi anni, ed è causato dallo spostamento, in inglese si dice displacement, dei terreni agricoli che sono generalmente finora stati dedicati alla coltivazione per cibo, a causa ora di una maggiore richiesta di aree coltivabili per soddisfare la domanda di biocombustibili. D'accordo, e quindi si ha una sorta di espansione proprio della frontiera delle coltivazioni. Proviamo però adesso ad andare un po' sulla modalità con cui questo effetto LIUC si manifesta. Per esempio, il grano richiede dei terreni, o il mais, dei terreni molto buoni per crescere, quindi non è che si va a piazzare questo mais in più su dei terreni incolti e poveri, bisogna piazzarlo su dei terreni abbastanza ricchi, no? C'è una specie di slittamento progressivo, non so se si può fare un esempio. Sì, esattamente, proprio nel caso del grano, ad esempio, chiaramente gli agricoltori, se devono aumentare la produzione di grano, andranno a prendere il terreno immediatamente con una produttività molto simile a quella del grano, certo, leggermente più bassa, ma nel caso del grano, ad esempio, si passerà all'orzo. A sua volta l'orzo quindi avrà donato parte, certo, del terreno al grano, ma quindi avrà bisogno di recuperare questo terreno, a scapito di che cosa? Ancora una volta del cereale con una produttività leggermente inferiore ma abbastanza simile, ad esempio la segale. Quindi l'orzo si espande nello spazio della segale, e la segale a sua volta dovrà espandersi in un altro spazio, e alla fine si arriva ad espandersi in un posto dove coltivazioni non ce ne sono. Esatto. E lì le emissioni di anidride carbonica a quel punto aumentano. A quel punto dipende, ecco, a quel punto spieghiamo. Dipende da cosa c'è sul terreno che noi andiamo a coltivare. Ad esempio, chiaramente se è un terreno degradato, abbandonato, a quel punto andare a coltivare migliora sicuramente il terreno, perché lo si riporta produttivo, lo si irriga, si ferma a volte il processo di desertificazione, sì, in corso, eccetera. In questi casi sicuramente il terreno migliora e quindi si ha un miglioramento delle addirittura un contributo positivo. Però mi immagino che più spesso accada il contrario, no? Spesso accade, a volte c'è il rischio che invece sul terreno ci possano essere, nel caso estremo se c'è una foresta, certo, e in quel caso andare a tagliare una foresta per coltivare qualunque cosa, chiaramente non ha mai un impatto positivo. Fa aumentare parecchio le emissioni, certo. Però a volte anche alcuni tipi di cosiddetti grassland, di terreni abbandonati ma in cui c'è una ricrescita di erbe particolari, eccetera, dal punto di vista della biodiversità o dell'impatto del CO2, può essere pericoloso. È comunque un effetto che va monitorato. Ecco, ma si riesce a quantificarlo? Si riesce a dire per ogni coltura quante sono le emissioni ulteriori legate a questo effetto LIUC, legate a questa espansione delle frontiere dell'agricoltura? Allora, va chiarito che l'effetto non si può misurare direttamente, perché non si può sapere a priori in quale parte del mondo io andrò a sostituire il mio campo che prima usavo per cibo e adesso utilizzo per biocarburanti. Quindi, non potendolo misurare, l'unico sistema che abbiamo per quantificarlo è utilizzare dei modelli, sì, dei modelli cosiddetti agroeconomici, che quindi considerano tutta l'economia mondiale e tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l'aumento dei prezzi, tra cui le rese, i rendimenti, i terreni, le condizioni climatiche, eccetera, cercano di capire quanta terra in più nel mondo ci sarà bisogno per soddisfare sia la richiesta di biocarburanti che alla richiesta alimentare e in alcuni casi anche capire dove questa terra in più verrà coltivata. Ecco, da questo ragionamento statistico che quadro viene fuori? I risultati sono, diciamo, variegati, nel senso che gli effetti possono essere abbastanza bassi oppure possono essere enormi. Si arriva a delle situazioni in cui addirittura si emette più CO2 con i biocombustibili che con i combustibili fossili, sì, se non si sta. Si può arrivare a situazioni estreme di questo tipo. Biocombustibili di seconda e di terza generazione dovrebbero ridurre le emissioni di CO2. Anche per quanto riguarda l'effetto LIUC ci dobbiamo aspettare un miglioramento? Ma sicuramente la maggior parte di questi biocombustibili non utilizzano suolo, viene in mente i rifiuti delle lavorazioni del legno, delle foreste, delle lavorazioni agricole, quindi materiali lignocellulosici, sì. Mi vengono in mente le alghe, certo. Ad esempio. Ci sono dei biocombustibili di nuova generazione, cito il miscanto, cito la iatrofa, sì. Ad esempio i più comuni, che invece utilizzano terreni, sebbene marginali, eccetera, ma un occhio anche a questi andrebbe dato per essere certi che non vengano spostati da terreni marginali o poveri poi invece in aree agricole. Grazie Luisa Marelli. Prego, a tutti, buonasera. È tutto, a domani.